quando piove bevo un botto. Esco con lei, metto il pigiama sotto. Ma non perché ci devo andare a letto, che quando sto giù un botto non basta, giù botto. Mentre ballavo ho perso la pazienza, devo essermi caduta dalla tasca. E chi mi sta vicino la calpesta. E cazzo, questo drink è solo acqua. Credi in Dio, sì. Ti piace Beyond, sì. Andresti a Rio, sì. Ma dici io e te. Nello zono ci sta un buco e tu ti chiedi perché. Le cazzate che tu dici inquinano pure me. Boogeyman, spegni queste nuvole. Che lei si bagna più di me. Poi faccio cose stupide, stupide. Ma non è cool. Faccio una canna sotto il sole e volo su un charter. Potrei morire e vedere chi c'è dall'altra parte. Mi piace se ti muovi tipo I love it. C'è chi in bagno fa una pista più di Cairoli. C'è chi è bravo a cantare solo se fa i nomi. Noi torniamo a casa zombie tipo Nairobi. Giuro una di queste sere, chiudo e smetto quando voglio. Sto sul fondo del bicchiere, ma di quello mezzo vuoto. Frate vengo in pace, cambio mille facce. Chiama il vecchio Salmo e digli che mi dispiace. Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato. E mi piace. Boogeyman, spegni queste nuvole. Che lei si bagna più di me. Poi faccio cose stupide, stupide. Ma non è cool. Più di me. Poi faccio cose strane.